13. GR 24, il sole 24 ore. Graviano smentisce Spatuzza, non conosco Dell'Utri. Fini richiama Berlusconi, l'arbitro va rispettato e Berlusconi, lo dico con chiarezza, mai pensato alle elezioni. A Roma, in piazza al pubblico impiego della CGIL, Copenaghen, nel testo finale le opzioni di aumento, 1,5, 2 gradi. In apertura la deposizione dei fratelli Graviano al processo di Palermo contro il senatore Marcello Dell'Utri. In studio Raffaella Calandra. Conosce il senatore Dell'Utri? No. Ha mai avuto in precedenza rapporti di qualsiasi tipo col senatore Dell'Utri? Assolutamente no. Direttamente o anche indirettamente? No. Tre volte no. Filippo Graviano risponde alle domande della Corte e smentisce il suo ex killer. In videoconferenza dal carcere dove sconta l'ergastolo in regime di 41 bis, il più anziano dei boss di Brancaccio, per tre volte, come avete sentito, ha negato di aver mai avuto alcun contatto, rapporto o conoscenza con Marcello Dell'Utri, seduto lì in aula sul banco degli imputati con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, accusa per la quale è stato già condannato in primo grado a 9 anni. Chiamati a replicare sulle dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, quelle che sarebbero state le sue fonti, una smentisce dunque, l'altra non parla. Il mio stato di salute in questo momento non mi consente di rispondere, ha detto poco fa Giuseppe Graviano con una lettera rinviando le sue dichiarazioni a quando sarà disponibile. Madre Natura, così lo chiamava Spatuzza, che dei due fratelli era stato prima il braccio armato, poi il reggente del mandamento, non ha voluto dunque fare alcuna dichiarazione rispetto a quanto gli aveva attribuito Utignusu, alias il pentito, su quell'incontro al bar di Via Veneto e sui nomi dei referenti politici. Per 40 minuti circa invece aveva parlato il fratello Filippo. Non ho mai detto quelle parole a Spatuzza, non c'era nessuno che doveva farmi queste promesse, allora non c'era bisogno di chiedere aiuto, così ha detto Filippo Graviano, smentendo dunque quanto aveva detto Spatuzza, che gli aveva attribuito durante un colloquio nel carcere di Tolmezzo una frase secondo cui se non succede quello che doveva succedere, così ha fatto mettere a verbale Spatuzza, anche per noi arriva il momento di parlare. In questo momento a Palermo invece, terminata l'audizione dei due fratelli Graviano, la Corte sta per sentire il terzo boss, Cosimo Lonigro, chiamato a confermare o meno le dichiarazioni del pentito Gaspare Spatuzza, e vedremo. Grazie a Raffaella Calandra. Sulla deposizione dei Graviano, l'analisi di Nino Amadore, l'inviato del Sole 24 Ore al processo Dell'Utri. Se c'è da fare un titolo, io direi che Filippo Graviano ha parlato anche troppo per essere un mafioso. Aveva come un'ansia di dover precisare, di dover raccontare. Poi è chiaro, davanti alle domande dirette della Corte, ha detto di non conoscere Dell'Utri e di non aver avuto mai a che fare con lui. Il processo si fa sempre sul piano proprio tecnico molto, molto interessante, e anche sul piano politico, perché non dimentichiamo che in questo processo l'ombra lunga è sempre quella del premier, cioè di Silvio Berlusconi. Io registrerei un commento diciamo molto interessante da parte del senatore Dell'Utri, che è l'imputato, il quale ha detto: sono rimasto colpito dalle dichiarazioni di Filippo Graviano, questo mi sembra un vero pentito, rimarcando una notevole differenza con Spatuzza. La mia osservazione: quello che l'accusa non è un pentito affidabile, questo invece sì. Adesso per me questo è un vero pentito. Vi devo salutare. Ciao. Grazie a Nino Amadore, che comunque sentiremo anche nelle prossime edizioni del nostro giornale radio. E veniamo ad un'altra notizia importante di cronaca e politica. Il ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, è stato rinviato a giudizio per i reati di corruzione e di illecito finanziamento dei partiti in concorso con l'imprenditore ed editore romano Giampaolo Angelucci, anch'egli rinviato oggi a giudizio. È stato invece prosciolto da vari altri reati, tra cui l'associazione per delinquere e concussione. lo ha deciso il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Bari, Rosa Calia Dipinto. Veniamo allo scontro politico. Ieri le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, poi le affermazioni del capo dello Stato Giorgio Napolitano, poco fa il Presidente del Consiglio ha smentito di avere in testa di andare alle elezioni anticipate, elezioni politiche anticipate. Il governo porterà a termine la legislatura secondo quanto deciso dagli italiani con il voto, ha detto poco fa da Bruxelles Berlusconi, e oggi ha parlato anche Fini. Siamo in diretta con Andrea Viali, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio Daniele. Come dicevi, sull'attacco di Berlusconi alla Consulta è tornato questa mattina di nuovo il presidente della Camera Fini, che ieri aveva criticato assieme al capo dello Stato di Napolitano le parole di Berlusconi. Fini, parlando all'Università della Calabria, ha fatto ricorso ad un paragone calcistico, ha detto: come in Milan Inter o Roma Lazio ci si scontra ma si rispettano l'arbitro e le regole del campionato, ha detto, ma sentiamo le sue parole. La fine delle ideologie significa passare dalla logica del confronto, che è scontro tra amico e nemico, alla logica del confronto con l'avversario, non con il nemico. E badate, non è un giocare con le parole. Il nemico è colui che ti uccide o tu uccidi. Il nemico è tipico di una situazione bellica. L'avversario è colui che tu batti o ti può battere, ma c'è sempre e comunque il rispetto di regole condivise. Berlusconi si comporta come un dittatore sudamericano, interviene invece stamattina dall'opposizione Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, secondo il quale se il governo continua ad essere sordo ai bisogni dei cittadini si arriverà allo scontro di piazza, questo è l'avvertimento di Pietro, mentre dalla maggioranza intanto anche oggi sono molte le prese di posizione invece a favore di Berlusconi. Sentiamo quella del ministro dello sviluppo Scajola, poi la linea può tornare a te Daniele. È da tempo che il Presidente del Consiglio pone il problema di un doveroso riequilibrio fra i poteri dello Stato che rispetti la sovranità popolare. Oggi c'è molta confusione e questo problema prima sarà risolto, prima garantirà un procedere sereno dell'attività parlamentare e governativa. Berlusconi continua a parlare da Bruxelles. Alla domanda, le preoccupazioni di Napolitano in realtà ci dovrebbero essere, dice Berlusconi, per uso politico della giustizia, contrario alla democrazia e alla libertà. Tutti hanno chiarissima questa situazione, c'è una situazione di violenza soltanto nei miei confronti. Questo Berlusconi da Bruxelles. Intanto in questi minuti il Consiglio dei Ministri del governo deve discutere di molti temi. Tutto avviene nelle ore in cui si discute più in generale di finanziaria. Siamo in diretta con Vincenzo Miglietta. Sì, di nuovo buongiorno. Lavoro in corso qui alla Camera sulla manovra economica. Al centro delle votazioni di oggi gli emendamenti relativi al disegno di legge sul bilancio. Il dibattito intanto ruota ancora intorno al possibile ricorso alla fiducia da parte del governo. Palazzo Chigi dovrebbe porla martedì prossimo. La tesi del ministro dell'economia Tremonti è la seguente: il testo uscito dalla commissione bilancio è quello definitivo e non servono correzioni. Le opposizioni parlano però di esproprio del Parlamento e a loro dire, per togliere alibi al governo, hanno ridotto a 49 il numero delle proposte di modifica. Il centro-sinistra, spiegano i gruppi parlamentari di PD, Italia dei Valori ed UDC, è disponibile ad arrivare al voto finale sulla finanziaria giovedì prossimo, vale a dire la stessa data prevista con il voto di fiducia. Se il governo insisterà, sottolinea Casini, lo farà contro la sua maggioranza. Non mi scandalizzerei, replica tuttavia il relatore alla finanziaria Corsaro, se il governo non cambiasse idea. Il punto, spiega l'esponente del centrodestra, è che non è possibile cambiare il provvedimento. Il Consiglio dei Ministri infine è stato approvato il riordino della normativa sull'attività agricola. E da Roma è tutto. Lo scontro della politica avviene tutto quanto anche a pochi mesi dalle elezioni regionali. Sono 13 le regioni che a marzo andranno alle urne per cambiare o riconfermare il governatore. In Campania tramonta la candidatura di Nicola Cosentino per il PDL. Silvio Berlusconi ha detto che si sta profilando una candidatura esterna alla politica. Sarà un candidato scelto nella società civile, ma il nome ancora manca. A sinistra c'è l'uscente Antonio Bassolino che, secondo indiscrezioni, starebbe cercando un'alleanza con l'UDC. Battaglia dura e imprevedibile sarà quella per la Calabria. Agazio Loiero, attuale governatore del PD, dovrà vedersela con Giuseppe Scoppellitti, sindaco di Reggio Calabria. In Lombardia, altro match di rilievo con due personaggi politici di peso come Formigoni e Penati. Filippo Penati, del Partito Democratico, ex presidente della provincia di Milano, sfiderà Roberto Formigoni alle regionali della Lombardia il 28 e 29 marzo 2010. La candidatura di Penati verrà ufficializzata oggi pomeriggio, battendo sul tempo la presentazione di Formigoni che avverrà domenica alla presenza di Berlusconi e La Russa. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E un altro aspetto della politica è quanto avviene a Parma, cioè la convention della fondazione dell'Alleanza per l'Italia, il movimento di centro lanciato da Rutelli, Tabacci, Lorenzo Dellai. Paolo Piacenza ha intervistato il portavoce Tabacci. A Parma c'è l'avvio di una storia legata a quest'idea del movimento di Alleanza per l'Italia, che ha la presunzione di poter mettere insieme diverse realtà che sul piano territoriale, sul piano politico, sul piano sociale, sul piano economico hanno guardato a noi, perché ritengono che l'offerta politica costretta nello schema bipolare non abbia dato grandi risultati. Cosa farete alle regionali e come evolve il rapporto con l'UDC? Guardi, alle regionali vedremo cosa accadrà nelle diverse realtà, perché noi Parma la facciamo anche per realizzare un censimento delle adesioni, per cui può darsi che in alcune regioni andremo con un simbolo e in altre non parteciperemo affatto alla competizione. Non c'è ansia da prestazione. Con l'UDC ci abbiamo fatto un incontro il 27 di novembre, ci siamo ripromessi dopo le regionali di dar vita a un percorso comune, se ci sono le condizioni, la vedremo, perché poi per fare queste cose siamo tutti consapevoli, non è che qualcuno può immaginare che annette qualche altro, insomma. Ecco, infatti non c'è il rischio che Casini giochi sul fatto che voi avete per certi versi una scelta obbligata? Ma guardi, io non ho di questi giochi, non conosco il segno, la direzione di marcia, e quindi non sono affatto preoccupato. Sono convinto che invece Casini si ponga anche lui lo stesso problema che ci poniamo noi e che è il problema che si pone la politica italiana. Poi vedremo. Alle 13:18 minuti e 18 secondi riprende il racconto sulle notizie principali della giornata, in studio Daniele Biacchesi. La seconda parte del nostro GR si apre con la manifestazione dei lavoratori del pubblico impiego aderenti alla CGIL. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno da Piazza del Popolo. È cominciato pochi minuti fa il comizio conclusivo del segretario della CGIL Epifani. Chiediamo al governo il rilancio della scuola, gli investimenti nella ricerca, il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Il governo risponda con i fatti, ha detto Epifani, ricordando che nella finanziaria quasi approvata a suo dire non ci sono soldi per i contratti pubblici. Alcune cifre fornite dalla CGIL poco fa su questa giornata: 100.000 le adesioni alla manifestazione di Roma, 180.000 quella totale delle piazze italiane, 30% i lavoratori che hanno incrociato le braccia nella scuola, quasi il 60% nel pubblico impiego. In questa manifestazione ci sono anche lavoratori delle università, della scuola, dipendenti di accademie e conservatori, una parte del mondo appunto della scuola e dell'università che ha deciso di confluire in questo corteo. Gli studenti invece, che hanno preso le distanze dalla CGIL, hanno partecipato ad un'altra manifestazione partita questa mattina dall'università. Presenti anche i leader dell'opposizione al corteo, dove ci sono i lavoratori dobbiamo esserci anche noi, ha detto il segretario del PD Bersani, spiegando così il motivo della sua partecipazione. La questione sociale, ha spiegato Bersani, è legata alla questione democratica e Berlusconi si va avanti a strappi, si troverà di fronte ad una reazione dura. Sulla stessa linea il leader dell'Italia dei Valori Di Pietro, che ha parlato del rischio di uno scontro di piazza. Da Roma per ora è tutto, a voi la linea. Per completezza di informazione dobbiamo ricordare che questo corteo degli studenti e dei precari della scuola, che praticamente doveva raggiungere Piazza della Repubblica, poi ci sono stati degli scontri, anche dei duri scontri con le forze dell'ordine. La polizia ha bloccato, usando i manganelli, gli studenti dell'Onda, che hanno cercato di forzare per due volte il cordone delle forze dell'ordine, fronteggiandolo a mani alzate. I manifestanti volevano raggiungere il Ministero dell'Istruzione nonostante il divieto. Dopo essere arrivati in Piazza della Repubblica per evitare il blocco in Via Nazionale, hanno cominciato poi a correre verso Viale 20 Settembre, dove si trova il Ministero dell'Economia, rincorsi dalla polizia. Poi, dopo i tafferugli, momenti di tensione, alcuni migliaia di studenti precari sono poi riusciti ad arrivare davanti al Ministero al grido di «Noi la crisi non la paghiamo». E ora il vertice sul clima di Copenaghen, molte le novità oggi in diretta, il nostro inviato Gigi Donelli. Sì, buongiorno Daniele, effettivamente si comincia a parlare di documenti, circa due ore fa è stato dunque presentato il documento della Presidenza e vengono identificati i primi obiettivi. Proprio in questo momento sta parlando il segretario generale della conferenza Ivo de Boer, l'olandese Ivo de Boer, e insomma ha esordito, ha affermato che dunque è arrivato il tempo di identificare gli obiettivi di lungo periodo, insomma decidere se puntiamo a mantenere la temperatura media del pianeta entro i 2 gradi o a puntare al 1,5 gradi di riscaldamento, questione che come sapete può sembrare dettaglio a distanza, in realtà è in prima linea soprattutto per i paesi del Pacifico e naturalmente anche per i paesi dell'Africa che ricordano, l'hanno fatto più volte in questi giorni, che 2 gradi di innalzamento medio per loro significa un aumento di 3,5-4 gradi nel periodo estivo. Insomma, il documento punta a ridurre sensibilmente le emissioni entro il 2050, si parla in questo caso del 50% che diventa l'opzione minima. L'obiettivo è indicato anche per i paesi industrializzati che in quanto gruppo a sé entro la metà del secolo dovrebbero tagliare i gas di serra di almeno il 75%, un obiettivo globale dunque che appare ambizioso, decisiva come sempre sarà la valutazione delle grandi potenze emergenti come Cina e India che fanno ormai parte del gruppo dei paesi più inquinati del pianeta ed è chiaro che se lo sforzo richiesto ai paesi ricchi sarà troppo debole saranno loro a pagarlo. E poi infine novità anche dal fronte finalmente europeo, la Presidenza svedese di turno dell'UE ha dunque raccolto i contributi volontari per il Fast Start da tutti i 27 Stati membri. Reinfeldt, dunque il Presidente svedese, ha confermato che il totale degli aiuti sul tavolo è pari a 2,4 miliardi per anno, è un totale dunque di 7,2 miliardi di euro per i 3 anni di finanziamento 2010 e 2012. Per ora da Copenaghen è tutto, la linea allo studio. Grazie Gigi Donelli in diretta da Copenaghen. Oltre 2.000 richieste di costituzione di parte civile, quasi 3.000 vittime accertate, altre persone che si stanno ammalando. Si è aperto dunque a Torino il maxi processo a carico degli ex vertici della Eternet. A giudizio lo svizzero Schirmeney e il belga Louis de Cartier e devono rispondere dei reati di omissione dolosa, di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale. Al microfono di Katia Caramelli, uno degli avvocati di parte civile, Laura D'Amico. Un vero e proprio disastro tra le popolazioni sia di lavoratori che di cittadini dei vari comuni presso i quali erano stanziati gli stabilimenti della Eternit. Casale Monferrato, Cavagnolo, quello presente presso il comune di Bagnoli, Napoli, quello presente presso Rubiera, Reggio Emilia. Vicende legate a patologie asbesto correlate, cioè che sono dipese, sono sorte a seguito di una indebita esposizione ad amianto e che hanno causato la morte e le malattie gravi o gravissime in danno di migliaia e migliaia di persone. Ecco, parliamo già di quasi 3.000 vittime, almeno secondo me. Sì, sicuramente. I dati certi ad oggi, a questa mattina, noi non li abbiamo. Sappiamo però per certo, quindi con dati approssimati per difetto, che solo presso il comune di Casale il numero delle vittime da amianto si aggira attorno alle 1800 persone. Si fanno anche delle previsioni molto pessimistiche per il futuro, c'è chi ha fatto delle stime, dice nei prossimi 11 anni almeno altre 1000 vittime. Le patologie asbesto correlate, in particolare il mesotelioma, sono patologie che hanno dei tempi di latenza anche molto lunghi. Il mesotelioma in particolare può arrivare a tempi di latenza che arrivano fino ai 40-50 anni. Noi abbiamo tra le vittime non solo le mogli che lavavano le tute dei loro mariti, le lavavano in casa, ma anche i familiari. E tenga poi conto del fatto che la lavorazione dell'amianto presso questi stabilimenti era condotta in tale spregio alle norme di prevenzione che l'inquinamento era diventato poi un inquinamento interno alla fabbrica, ma anche esterno alla fabbrica, per cui le intere cittadinanze sono state, chi più direttamente, chi un po' meno, ma le intere cittadinanze sono state colpite da questa esposizione. Ecco, uno degli avvocati ieri ha detto: non importa come andrà a finire questo processo, l'importante è che ci siamo arrivati, lo pensa anche lei? Questo sicuramente, e questo è il primo processo a livello italiano e, a quanto si sa, il primo processo a livello europeo che per la prima volta appunto tratta di casi di tale devastazione, proprio di disastro, da patologie spesso correlate che riguardano in modo particolare gli stabilimenti Eternit, ma noi sappiamo che le esposizioni all'amianto erano presenti anche presso innumerevoli altri. Ha chiuso in bellezza mercoledì sera con il 13,48% di share, leader assoluto della sua fascia d'ascolto, cioè la terza serata che in 25 anni di trasmissione ha contribuito sostanzialmente a creare. Stiamo parlando del Maurizio Costanzo Show e Costanzo è felice per questa chiusura ed è pronto per una nuova avventura. Lo ha intervistato Marta Cagnola. La fortuna è stata quella di riuscire a smettere quando la trasmissione ancora andava bene, perché la cosa che più mi terrorizzava in passato era quella di non sapermi accorgere per tempo, no? Quando bisognava smettere. Prima c'erano stati Bontaloro, Acquario, lei sì. Ha attraversato la storia d'Italia. È il mestiere del talk show, in realtà, perché il talk show dovrebbe far quello, a meno che si imbastardisca in altro, ma altrimenti dovrebbe fare quello. E lei come vede questo genere oggi nella televisione? Non bene, per colpa dei reality, mi spiego. La gran fortuna del mio programma è stato quello di aver trovato con la mia redazione, no? Anche in giro per l'Italia, personaggi stravaganti, un po' ma veri. Il reality ha indotto alcuni nostri connazionali andare a fare i concorrenti costruendosi il personaggio. Lei ha subito un attentato gravissimo e ancora se ne torna a parlare, ovviamente. È successo che, avendo preso in esame dalle confessioni vere o finte di un pentito, in quell'anno c'era l'attentato a me. Può essere pure che fra N anni un altro pentito dirà, capito? Penso, spero che poi si concluda qui, ma a me mica ha dato fastidio, tanto la verità è io l'attentato ce l'ho avuto, purtroppo, meno male che sono vivo. In chiusura una segnalazione per il weekend: per domani il mercato della terra a Milano, un'iniziativa dello Slow Food. Sentiamo da Angelo Bissolotti di Slow Food di Milano in che cosa consiste. Ci sarà un mercato contadino con 50 bancarelle nella piazza delle Esversiere di Milano, che è la piazza della Comunità d'Italia, di fronte alla Palazzina Liberty, in cui questi contadini sono tutti legati a un'agricoltura di prossimità, il che vuol dire che sono all'intorno di un raggio di produzione di 40 km da Milano. E la particolarità di questi contadini è che hanno una produzione virtuosa, quindi hanno una serie di prodotti contadini in cui tutta la trasformazione, il ciclo, viene all'interno dell'azienda agricola stessa, per cui, che ne so, ci saranno la salsiccia da mangiare anche cruda, quella fatta col brodo milanese, che ormai non si trova praticamente più, ma chi fa questa salsiccia alleva anche i maiali e li alleva in un certo modo, quindi li alleva avendo la cura di ciò che è l'alimentazione, la cura di rispettare il territorio, si cerca di riallacciare un rapporto città-campagna. Così va il mondo, secondo Radio 24, quando sono le 13:29 minuti e 47 secondi, vi ha parlato Daniele Biacchesi, le prossime notizie alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.